Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Lei è una delle scrittrici turche più famose a livello internazionale. Il suo romanzo La bastarda di Istanbul era diventato un bestseller. Elif Shafak vive da anni a Londra, ma non ha mai rinnegato le sue origini. Nel nuovo romanzo Tre figlie di Eva, pubblicato in Italia da Rizzoli con la traduzione di Daniele Jevurz e Isabella Zani, racconta la storia di una donna turca, Peri, che ricorda parte del suo passato in Turchia, a cui dunque c'è l'affresco del paese dagli anni 80 ad oggi, ma ricorda anche il periodo degli studi ad Oxford. Qui aveva stretto amicizia con Shirin, un'iraniana atea, e Mona, americana di origine egiziana, musulmana praticante. Metaforicamente Shirin rappresenta la peccatrice, Mona la credente e Peri la dubbiosa, perché è divisa fra la religiosità della madre e il laicismo del padre. Sentiamo come ce ne parla Elif Shafak con la traduzione di Marina Astrologo. In my new novel there are three young women, all of them from Muslim background. Sì, nel mio ultimo romanzo, Tre figlie di Eva, abbiamo tre giovani donne come protagoniste, tutte provengono, diciamo, da società o paesi musulmani. Shirin, la prima, è atea, non ama nessuna religione, ce l'ha in modo particolare con l'Islam, per il modo in cui maltratta, a suo modo di vedere, le donne. La seconda è Mona, che al contrario è una musulmana praticante che porta il velo islamico, e lei invece ce l'ha contro gli islamofobi. La terza è turca come me, si chiama Peri, e è quella che è sempre piena di domande, sempre piena di interrogativi su tutto. Dunque abbiamo la peccatrice, la credente e la confusa. E in questo romanzo io punto i riflettori soprattutto sul viaggio della confusa, della mia Peri, con le sue perplessità, le sue interrogazioni. Dunque nel romanzo abbiamo moltissime osservazioni totalmente realistiche sulla Turchia contemporanea, sulla Turchia odierna e sul mondo musulmano odierno. Novel full of realistic observations about contemporary Turkey and about contemporary Muslim world. Vedendo un po' la vita di Peri, ci sono diversi flashback in questo romanzo, ci sono per esempio dei momenti in cui lei era ragazzina ed era appunto divisa un po' fra una madre più religiosa e un padre invece quasi ateo. A un certo punto il padre le dice: ricordati che se non fosse stato per lui, riferendosi ad Ataturk, a quest'ora saremmo come l'Iran. Dovrei farmi crescere la barba e distillarmi l'alcol da solo, poi mi scoprirebbero e mi flagellerebbero sulla pubblica piazza, e tu, anima mia, dovresti portare il chador già alla tua età. Quando ho visitato la Turchia negli anni Ottanta, Ataturk era considerato veramente il padre della patria, il rivoluzionario. Che cosa ne è oggi della rivoluzione fatta da Ataturk? Turkey is a very polarized society and it has been polarized for a very long time. La società turca è molto divisa da molto tempo, soltanto che oggi questa caratteristica di polarizzazione credo che sia più profonda di quanto sia mai stata. Sì, è vero, come lei dice, Atatürk, fra le altre cose, credeva fermamente nell'uguaglianza delle donne e nei loro diritti. Io ho il massimo rispetto per le concezioni di Atatürk. Malauguratamente però nel nostro paese adesso assistiamo a un riflusso, un regresso in direzione misogena e patriarcale, come se avessimo voltato le spalle a quella visione. In generale la società turca è sempre stata molto patriarcale, ma adesso vediamo proprio una deriva sessista, omofoba, molto molto più che in passato. E si potrebbe pensare che il mondo letterario fosse diverso, ma di primo acchito appare sicuramente più progressista, più aperto, ma all'interno è esattamente altrettanto patriarcale della società generale. Le donne, ci sono donne anche molto forti, personalità femminili molto forti nel mio paese, però l'atmosfera generale è gravata da questo patriarcato così radicato. We have strong women, but as a system we live in a very patriarchal country. Come mai questa involuzione negli ultimi anni? Turkey has been losing its democracy, increasingly losing La Turchia è venuta gradualmente perdendo la sua democrazia liberale e per solito quando c'è una perdita di democrazia liberale questa va di pari passo con una perdita, con un arretramento sul terreno dei diritti delle donne e delle minoranze. Questa è un'osservazione valida per tutto il mondo, è un'osservazione generale. Ed è per questo che io penso che oggigiorno dovremmo far sentire la nostra voce anche più forte di prima, dovremmo parlare di più e farci sentire nello spazio pubblico noi donne. Penso che sarebbe importante invece che le donne di tutti i ceti sociali, di tutte le appartenenze, fossero maggiormente responsabilizzate, perché penso che se un paese, una società perde la democrazia completamente, chi ci perde di più sono le donne, anche rispetto agli uomini. Per questo è più decisivo che le donne si facciano sentire per evitare questo regresso totale. So for us it's more critical the loss of democracy. Ora sicuramente la situazione politica in Turchia è difficile, però non è che negli anni Ottanta le cose andassero molto meglio. Per esempio, a proposito di rispetto dei diritti umani, nel suo libro c'è la scena in cui il fratello di Peri viene arrestato, viene torturato in carcere, poi condannato a 8 anni di reclusione per una cosa di fatto che non aveva commesso, o comunque un reato decisamente molto molto marginale. Com'è secondo lei la situazione del rispetto dei diritti umani in Turchia fra gli anni Ottanta e oggi? In terms of human rights and freedom of speech and women's rights, I wish I could tell you that we have made big progress. Sotto il profilo dei diritti umani, della libertà d'espressione, dei diritti delle donne, vorrei poter dire che abbiamo fatto grandi progressi, ma temo di non poterglielo dire perché non abbiamo, credo, compiuto quei passi avanti che avremmo dovuto far fare alla Turchia, e anzi, al contrario, mi preoccupa molto questa tendenza al riflusso sotto questo profilo. Mi sembra che ci sia un contraccolpo e che abbiamo imboccato una deriva nella direzione contraria e che questo proceda molto velocemente. La Turchia è un paese veloce, non c'è quasi mai il tempo di fermarsi ad analizzare un nuovo sviluppo politico, che ecco che dopo una settimana ce n'è un altro ancora più nuovo, tutto si muove molto molto in fretta, e quindi abbiamo visto un ritorno indietro e i governanti turchi adesso addirittura stanno pensando se non sia il caso di reintrodurre la pena di morte in Turchia. Io penso che sarebbe un errore terribile e che farebbe regredire ulteriormente il paese e lo scollegherebbe ulteriormente da quei valori che sono al centro, diciamo, dell'Unione Europea. Quello che mi preoccupa davvero è che tutti quanti i turchi, in modo particolare le turche, possano perdere quel po' di diritti che avevano conquistato. We might even lose the rights, the little rights that we have, even those we might lose. Tornando prettamente al romanzo Tre figlie di Eva, abbiamo visto che ci sono tre personaggi simbolici, la peccatrice, la credente e la dubbiosa. Sicuramente dal punto di vista letterario è molto più interessante, come ha fatto lei, analizzare il punto di vista della dubbiosa, perché pone appunto tante domande e tanti punti di vista diversi. In questo essere dubbiosa, Peri, come riesce a barcamenarsi fra, per esempio, la figura del padre laico e la madre religiosa, fra l'amica Shrin, iraniana assolutamente appunto atea, e invece Mona, che è, non dico una musulmana integralista, ma quantomeno una musulmana molto osservante? I'm interested in questions of faith and doubt. But this is a nuanced position. There's a nuance. A me interessano molto le questioni della fede e del dubbio. Però la mia posizione è una posizione sfumata. Io personalmente non sono una persona religiosa e direi che non sono affatto una credente, però la fede invece la prendo molto sul serio. Ci penso alla fede. Penso che ognuno di noi compie costantemente, di continuo, degli atti di fede laica, se vogliamo dire così, nella sua vita. Decidere di scrivere un libro è un atto di fede. Innamorarsi di uno che fino a quel punto è un perfetto sconosciuto è un atto di fede. Trasferirsi in un'altra città è un atto di fede, quindi la fede è importante nella vita di ciascuno di noi, però penso che il dubbio sia altrettanto importante, perché senza il dubbio la fede si riduce a dogma, i dogmi sono sempre molto pericolosi. Allora, quando ho deciso di scrivere questo libro e di scrivere la mia Peri, l'ho fatta confusa apposta, perché volevo cercare di spingere un po' avanti questa interazione, quasi una danza, tra la fede e il dubbio. A me fanno molta paura le persone che si proclamano con certezza assoluta religiose oppure atee, perché sono rigide le une e le altre per via di questa certezza assoluta. A me piace chi ha un atteggiamento un po' più umile e che dice: non so, sto ancora cercando. Tutti noi dovremmo stare ancora cercando, nel senso che il sapere, la conoscenza è un viaggio che dura tutta quanta una vita, non si arriva mai veramente. Mi interessano molto di più quelli che pongono domande che quelli che offrono risposte. For me, questions are more important than answers, and I'm someone who is learning. You know, that's my approach. Apparentemente, quindi, lei insomma si identifica con Peri, eppure ho letto che in realtà in questo romanzo lei è voluta entrare un po' come proprio Elif Shafak nel personaggio del professor Azur. Mm. Come mai? Usually people expect women writers to be in their women protagonists, you know? Per solito la gente si aspetta che una scrittrice donna si identifichi con i suoi personaggi donne. Però in realtà non è necessariamente così. Quanto a me personalmente, mi piace nascondermi dentro alcuni dei miei personaggi maschi. Sicuramente al centro di questo romanzo ci sono tre donne, tre giovani donne, e ciascuna ha in sé degli echi di me, soprattutto per quanto riguarda Shirin e Peri. Ma io non sono nessuna delle tre. Mi sento molto più vicina al mio personaggio maschile, quello del professore Azur. Azur per me è un catalizzatore, è un costruttore di ponti, perché è qualcuno che ama continuamente mescolare gente che ha l'apparenza poco in comune, per mescolare posizioni completamente diverse. Io mi sento molto più come lui che come le mie tre ragazze. Ben inteso, so benissimo che si tratta di un personaggio che ha i suoi bei difetti, che commette errori. Non si tratta affatto di un eroe, io neanche ci credo agli eroi. Io ho scritto questo personaggio del professor Azur con grande passione, perché penso che di persone come Azur noi ne abbiamo sempre molto bisogno. Queste sono le persone che suscitano interrogativi, che pongono quesiti e quindi scuotono in qualche maniera gli altri, li inducono a spezzare certi schemi, e li snidano dalle loro categorie troppo rigide, dalle loro convinzioni troppo scontate. Per me il professor Azur, questo personaggio maschile di questo mio romanzo, è un costruttore di ponti. So I see Azur as a bridge builder. Quando lei ha scritto La bastarda di Istanbul, ci sono state molte polemiche, lei è stata addirittura, diciamo, sotto scorta, è dovuta rimanere sotto scorta per un paio d'anni perché faceva riferimento al genocidio degli armeni. In questo caso, pubblicare oggi un libro come questo, pieno anche di dubbi sulla religione, sull'islamismo, eccetera, in un paese come la Turchia, crede che le possa creare qualche problema? To me it's very clear that in my motherland words are very heavy, you know, and words can put you in trouble. Mi è molto chiaro che oggigiorno in Turchia le parole sono davvero molto pesanti, che le parole ti possono inguaiare, ti possono procurare un sacco di problemi, anche su un romanzo, ma che dico, un articolo, un'intervista, un tweet, potrebbero farti facilmente finire nei pasticci, cioè tu potresti andare a letto la sera e risvegliarti la mattina, scoprire aprendo i giornali che i giornali sono pieni di attacchi, di accuse, di calunnie contro di te, e poi magari potresti scoprire che i troll sui social media ti stanno scagliando addosso espressioni di odio, che spesso usano un linguaggio molto molto sessista se sei donna. Tuttavia io, quando mi accingo a scrivere un nuovo libro, mi chiudo dentro un mondo immaginario che è tutto mio, vivo insieme con i miei personaggi da un'altra parte parte, vivo con loro per giorni, settimane, mesi, anche anni. Dunque, quando io scrivo mi sento più libera, anche più leggera, e più avveduta e meno ansiosa. Una volta terminato il libro viene pubblicato, magari io vado in tournée per promuoverlo, l'ansia mi torna. Però so bene che il mio spazio di scrittura è uno spazio di libertà. But my writing space is my space of freedom. E questa era Elif Shafak, autrice di Tre figlie di Eva, pubblicato da Rizzoli. Fra l'altro la Shafak ha inaugurato giovedì sera a Book City a Milano, grande manifestazione dedicata ai libri e agli scrittori che si concluderà domenica. Il giardino dei fiori segreti è il nuovo romanzo, Garzanti, di Cristina Caboni, diventata famosa con Il sentiero dei profumi. Questo nuovo romanzo è un inno al giardinaggio, alle possibilità di consolazione, di incoraggiamento che può arrivare dall'arte proprio di coltivare piante e fiori. Brevemente la trama. C'è una donna, Iris, che è appassionata di fiori. Va a Londra, alla Chelsea Flower, che è la più grande mostra di fiori al mondo, e qui incontra una donna identica a lei, praticamente la sua gemella, ma lei non sapeva di averla. Entrambe cercheranno di ricostruire la loro storia fra i segreti e le omissioni di famiglia. Ecco come ce ne parla Cristina Caboni. Iris è una ragazza molto, molto serena. Allo stesso tempo ha un po' di difficoltà a integrarsi con gli altri, perché il suo mondo e quello degli altri non combaciano. Spesso le persone ti giudicano per quello che fai, e parlare con le piante, avere a cuore tantissimo la natura, i fiori, sono delle caratteristiche che la gente non vede di buon occhio. Diciamo che sono quasi delle eccentricità, degli aspetti un po' bizzarri, però lei non può fare a meno, perché per lei le piante e i fiori sono sempre stati importantissimi, tant'è vero che lei qualche volta la notte va e fa i giardini in quei luoghi dove lei pensa che debbano esserci fiori, perché i fiori aiutano le persone. Negli ultimi anni si sta parlando spesso del ritorno proprio al rapporto con la terra, c'è chi fa l'orto anche su un piccolo terrazzino, chi appunto coltiva piante da fiori e così via. Che cosa rappresenta per Iris il giardino, e a te come è venuta in mente l'idea di creare questo personaggio così legato all'idea del giardino? Per Iris i fiori e la terra rappresentano l'espressione della sua anima, il modo che lei utilizza per rapportarsi con gli altri, con tutto quello che la circonda. È anche un bisogno. Iris, secondo me, è proprio l'espressione di come io vedo il giardinaggio, no? Di come io vedo la capacità di utilizzare la natura per rafforzarsi, perché noi ogni volta che piantiamo una piantina, che seminiamo, stiamo in qualche maniera, ci stiamo rafforzando per quei momenti invece della vita che sono molto difficili. Stiamo acquisendo una gioia così immediata, così spontanea, che molte volte passa inosservata. Non c'è soddisfazione più grande e anche più semplice di vedere sbocciare il fiore che tu hai coltivato, oppure spuntare la verdura, per esempio, che tu hai seminato. È un qualcosa che possono fare tutti, basta un pugnetto di terra, un vasetto, qualche semino ed è fatto, cioè tutto lì è alla portata di tutti. Pensi allora che il giardino possa avere un effetto terapeutico su chi se ne prende cura? Io ne sono assolutamente sicura. Comunque devo dire che durante le mie ricerche ho scoperto che ci sono delle scienze, c'è la garden therapy che utilizza questa coltivazione dei giardini per recuperare il buon umore, per recuperare la capacità di rapportarsi anche con gli altri e con se stessi. Sono proprio dei percorsi straordinari, c'è addirittura quelli che fanno i sentieri e dove si va sull'erba con i piedi nudi, ed è una cosa straordinaria secondo me. E poi anche la capacità, insomma, di usufruire dei colori e dei profumi e dunque modificare l'ambiente che ci circonda. Questo significa agire, avere il controllo su una parte della nostra esistenza che invece magari noi siamo soggetti a quasi subirla, questa vita. Invece così abbiamo di nuovo il controllo ed è una cosa molto soddisfacente. Tornando prettamente alla trama del giardino Regno dei Fiori Segreti. A un certo punto Iris va a Londra per una fiera, insomma, molto importante di fiori e di piante. E qui, lo possiamo dire perché insomma tutto il romanzo gira intorno a questo incontro che avviene abbastanza presto, fa un incontro particolare. A un certo punto vede una donna, una ragazza che è esattamente identica a lei. Che cosa accade in quel momento? Ah, in quel momento scoppia la bomba, ecco, diciamolo così, perché è facile che ci siano delle persone che si somiglino, ma che siano assolutamente identiche, che abbiano lo stesso colore di occhi, che addirittura si vestano nello stesso modo, scelgano gli stessi colori. È una caratteristica che hanno solo i gemelli. I gemelli che vengono separati in genere si avviano in maniera separata agli stessi percorsi, dunque entrambe amano i fiori in modi differenti, perché poi la società, il luogo dove vengono allevati, agisce su alcuni aspetti della personalità, ma ce ne sono altri che sono insiti, che sono espressione del patrimonio genetico. Così Iris e Viola si somigliano tantissimo anche in alcuni aspetti, e in quel momento, quando loro si vedono, capiscono che la loro vita non potrà più essere quella che era prima, e anche che i segreti o le omissioni che hanno sentito e provato, e quel senso di vuoto che provavano entrambe, aveva una spiegazione. Durante il libro poi si capirà. Infatti durante il libro Iris e Viola cercheranno di andare alle origini, delle proprie origini, delle proprie radici, capire che cosa è successo. Mi ha ricordato la donna che era protagonista del tuo romanzo, La custode del miele e delle api. Anche in quel caso la protagonista era una donna in disequilibrio, che faceva fatica a trovare il suo posto nel mondo. In questo caso Iris e Viola si sentono anche loro in disequilibrio finché non capiranno, insomma, che cosa è successo all'origine di tutto ciò. Perché ti piace sempre raccontare queste donne, queste ragazze, appunto, in una forma di disequilibrio? Perché io credo che la nostra esistenza, soprattutto all'inizio, no, quando noi siamo molto giovani, sia una ricerca di una dimensione che per noi è quella ideale, e spesso quello che noi non riusciamo a trovare è determinato dal nostro passato, da quello che è venuto prima. In questo caso, con la separazione delle due gemelle, nel caso precedente era Angelica come apicoltrice che non trovava il luogo dove fermarsi, perché il luogo dove fermarsi lei l'aveva lasciato nella sua infanzia. Io penso che sia un qualcosa che ci accomuna come persone. Tutte comunque abbiamo necessità di trovare un certo equilibrio, perché è da quell'equilibrio che poi parte la nostra felicità. È l'idea di scavare dentro di noi, perché ciò che noi cerchiamo, ciò che noi crediamo che ci faccia felici, in realtà è semplicemente la nostra consapevolezza, quello che noi siamo e quello che noi desideriamo, ma noi, non la società, non quello che c'è intorno, non i sogni degli altri. Quelli che contano sono i nostri di sogni. Nel libro precedente avevo imparato un sacco di cose sia sulle api che sul miele, perché tu hai fatto proprio una sorta di vademecum. Invece in questo, Il giardino dei fiori segreti, ogni capitolo inizia con dei piccoli, diciamo, versi dedicati a un fiore, a una pianta, insomma, c'è sempre comunque la voglia di comunicare anche qualcosa di più pragmatico oltre alla storia narrativa. E ho pensato che sarebbe stato carino avere dei consigli di giardinaggio, un qualcosa che io stessa, mentre facevo le ricerche per il libro, ho scoperto. E io ero felicissima di scoprire tutte queste notizie, ad esempio che la begonia è una delle piante che la NASA ritiene di estrema utilità in quanto purifica l'aria. Cioè, queste sono delle notizie bellissime, e ho pensato che magari potevo condividerle con i miei lettori, che sarebbe stato un valore aggiunto, insomma, perché comunque leggere è anche scoprire, e tutto quello che noi apprendiamo attraverso la lettura che ci piace, attraverso le storie, sono quelle cose che ci rimangono più impresse. Questa era Cristina Caboni, ora in libreria con Il giardino dei fiori segreti, pubblicato da Garzanti. Prima di chiudere vi segnalo un festival letterario iniziato a Cuneo mercoledì 16 e che si concluderà lunedì 21 novembre. Si chiama Scrittori in città. Tanti gli appuntamenti, tanti naturalmente gli autori, quindi vi rimando direttamente per le informazioni e il programma su internet il sito scrittoriincitta.it. Grazie in regia Valeria Bernardi e Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.